Radio 24 Reportage. Lesbo, lì dove finisce l'Europa, di Valentina Furlanetto. Quando siamo stati deportati in Afghanistan dalla Norvegia è stato terribile, ho dovuto lasciare le mie amiche, i compagni di scuola. In Iran ci sono molti profughi afghani, ma vengono discriminati. Allora siamo ripartiti e ora siamo qui. Sì, certo che lo rifarei il viaggio per venire qui, perché lì, in Iran, non avevo speranze e non avevo diritti. Qui sono libera. Isola di Lesbo, 312 chilometri da Istanbul e 2500 da Bruxelles. L'Europa, fisicamente e simbolicamente, è lontana e invisibile. Davanti a me, sull'altra sponda, vicinissima a Lesbo, c'è la Turchia, alla quale l'Europa ha delegato la sicurezza della sua frontiera orientale e per farlo ha pagato 6 miliardi di euro. Periodicamente Erdogan ricorda all'Europa che è lui a decidere le regole del gioco. Periodicamente qui arrivano ondate più o meno intense di migranti. Negli ultimi 6 mesi, ad esempio, gli arrivi a Lesbo si sono triplicati. 21.000 anime sopravvivono in un campo, Moria, che scoppia. La capienza, infatti, è di 3.000 persone, ma ce ne sono dentro 19.000. E fuori dalla recinzione di Filospinato, la collina di Ulivi è una distesa di tende, container, baracche, esseri umani. E poi bambini. Tantissimi bambini. Students come all day long here. Some of them are illiterate. They can't write. Ogni giorno ne arrivano, alcuni sono analfabeti, alcuni scrivono e parlano soltanto in farsi. È difficile insegnare così, ma è una sfida, dice un insegnante che lavora nel centro protetto per minori non accompagnati, che però ha posti solo per 500 persone, mentre i minori senza famiglia a Lesbo sono almeno 1.000. A Moria manca l'acqua, manca l'elettricità, il terreno è scivoloso per i liquami. I bambini giocano fra i rottami, fra l'immondizia. Quando piove, la collina di Ulivi, dove sono affastellate le tende, diventa impraticabile. C'è un bagno ogni 100 persone, una doccia ogni 230. La tensione è alta e palpabile. In quel tendone dormono anche molti minori non accompagnati. Come spesso accade, la mia personale frustrazione è che non vi posso far sentire l'odore. È l'odore che conta. Marco Sandrone è il capo progetto per Lesbo di Medici Senza Frontiere. Noi qui curiamo i bambini da 0 a 18 anni con assistenza medica di base. Dati i numeri, parliamo di 7.000 bambini oggi chiusi in condizioni deplorevoli qui a Moria, nel campo di Moria, che presentano anche situazioni e condizioni patologiche complicate che dovrebbero essere curate o prese in carico da un ospedale specializzato, che non è presente qui oggi a Moria, dove 20.000 persone sono intrappolate in questo campo, dove l'ospedale pubblico dell'isola è assolutamente sottostaffato e non ha le specialità in grado di rispondere a queste esigenze mediche. Quindi di fatto oggi i bambini che hanno dei problemi medici si trovano esclusi dal sistema sanitario pubblico, e a questo gap che Medici Senza Frontiere oggi prova a dare una risposta, ma anche noi siamo allo stremo delle forze, come tutti gli altri attori che operano dentro il campo, attori che sono non governativi. Ad oggi il governo si sta preoccupando esclusivamente di quello che sono le procedure della richiesta d'asilo. Ci sono anche storie positive a Lesbo, storie di volontariato locale che è riuscito ad aprire degli alloggi più dignitosi, più piccoli, delle attività lavorative per i migranti. Nei laboratori di PICPA a Mitilini, un gruppo di migranti crea zainetti e borse tagliando e cucendo i giubbetti salvagente trovati sulle spiagge. Lucio Melandri, capo progetto di UNICEF. Sicuramente la situazione è estremamente sovraffollata in senso generale. Negli ultimi mesi purtroppo abbiamo visto anche un incremento nell'arrivo dei bambini non accompagnati, e parliamo realmente di bambini. Cioè oggi qui dove ci troviamo insieme abbiamo dei bambini dell'età di 7-8 anni che viaggiano da soli. Non c'è più capacità di assorbire e proteggere questi bambini. Per cui oggi abbiamo quasi 6.000 bambini non accompagnati identificati qui in Grecia, dei quali solamente meno della metà di loro c'è stata la capacità di posizionarli in situazioni realmente protette, che sono i centri per i bambini non accompagnati, sono gli shelter, eccetera. Dove sono l'altra metà? Nelle situazioni più disperate. Sono fuori, sono homeless, e molti di loro cercano semplicemente di sopravvivere, di accedere a un po' di cash per procedere questi viaggi che noi chiamiamo i viaggi della speranza, ma che troppo spesso diventano i viaggi dell'orrore. Vengono sfruttati nelle situazioni più orribili, e c'è evidenza, come ci insegnano anche le istituzioni di polizia europea oggi, che si va dalla prostituzione, si va dal traffico di organi e a molto peggio. L'Europa ha iniettato molti fondi per la situazione nelle isole greche e nella terraferma. Si parla di 2 miliardi di euro. C'è da chiedersi dove sono finiti. Il programma EASO, European Asylum Support Office, ha appena annunciato che raddoppierà lo staff in Grecia, arrivando ad avere 550 persone. Attraverso diverse agenzie, l'Unione Europea finanzia anche un programma di cash assistance attraverso carte prepagate che vengono assegnate ai migranti. Ma non è solo una questione di soldi. L'impressione è che non si voglia risolvere la situazione di degrado qui a Lesbo, perché Lesbo e altri posti così servono da deterrente. Se i migranti presenti qui stessero bene, se ci fossero i servizi, se ci fosse la scuola, ne potrebbero arrivare degli altri. E l'Europa questo non lo vuole. In questa logica Lesbo non è un fallimento della strategia dell'Europa, ma la sua definizione. La presenza dell'Europa a Lesbo è incarnata fisicamente da Frontex, l'Agenzia Europea delle Frontiere. Un albergatore greco che lamenta il calo del turismo ha ribattezzato Frontex la più grande agenzia turistica per Lesbo. Le navi di Frontex sono ben visibili al porto. Il resto lo fanno i droni che sorvolano costantemente la costa. I poliziotti di Frontex riempiono bar e alberghi. Il 70% di migranti che arrivano a Moria sono afghani e il 10% sono siriani. I trafficanti si sono spartite le rotte. A Samos, ad esempio, arrivano africani, altrove iracheni. Le rotte sono le stesse che da sempre vengono percorse in questo tratto dell'Egeo, solo che prima i trafficanti portavano sigarette e contrabbando, ora uomini, perché oggi gli esseri umani fruttano di più. Fatima, 16 anni, ha compiuto per due volte questo tragico viaggio. Come in un crudele gioco dell'oca, dall'Afghanistan è arrivata in Europa, poi è stata riportata in Afghanistan e da lì è ripartita per arrivare in Europa. Ha vissuto in Norvegia buona parte della sua vita. Quando siamo stati deportati in Afghanistan dalla Norvegia è stato terribile. Ho dovuto lasciare le mie amiche, i compagni di scuola. Mi sono trovata a vivere in un paese estraneo. Non potevo andare a scuola. Mi mancava la Norvegia e non potevamo restare in Afghanistan per i problemi di insicurezza. Allora siamo ripartiti e ora siamo intrappolati qui a Lesbo. My dream is to go back to Norway and, you know, continue my study, my school. Mi dispiace non poter studiare. Ho interrotto i miei studi ormai da tempo e ho paura di non riuscire a recuperare. Qui non c'è niente da fare tutto il giorno. Il mio sogno è tornare in Norvegia e studiare per diventare medico. Vorrei specializzarmi in psicologia o in ortopedia. Quando Fatima parla non sembra un adolescente, ma una donna anziana, stanca, sfinita, triste. Si contorce le mani, ha le lacrime agli occhi. Vive in un container con la famiglia, il fratello Khaled ha 11 anni, il fratellino 5, la madre e il padre. Siamo scappati di nuovo da Kabul perché non potevo far vivere quella situazione alla mia famiglia. Dall'Afghanistan allora siamo andati in Iran, ma anche lì non era vita. In Iran ci sono molti profughi afghani, ma vengono discriminati. Non hanno accesso all'istruzione, non hanno documenti. Non potevo mandare i miei figli a scuola. Allora siamo ripartiti e ora siamo qui. Maria, una donna afghana scappata dall'Iran, è qui con il marito e i due figli. Le chiedo se, vista la situazione, tornerebbe indietro. Vengo nei centri UNICEF per donne e bambini per avere un po' di sollievo. Qui almeno possiamo stare al caldo, usare la lavatrice, far giocare i bambini. Ma poi la sera dobbiamo tornare lì, a Moria. Si vive male. Tuttavia lo rifarei. Sì, certo che lo rifarei il viaggio per venire qui, perché lì, in Iran, non avevo speranze e non avevo diritti. Qui sono libera. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.